Fatto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Cari amici, cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli. Benvenuti a questo appuntamento con la cronaca, con le notizie, con Effetto Giorno. Questa settimana sarò io in conduzione, ma quel che resta sono le notizie. Allora direi di cominciare subito con i nostri titoli. Crisi, immigrazione, vertice il 14, Casnueva Calais, l'Europa c'è e si sta mobilitando. Colpa dello Stato, l'ira della figlia dei coniugi siciliani uccisi a Palagonia, interrogatorio per l'ivoriano 18enne sospettato del delitto. Dopo l'arresto a Nabi Saleh, il Tribunale di Gerusalemme rilascia su cauzione Vittorio Fera. Descalzi Eni, dalla scoperta egiziana del maxi giacimento, una grande ricaduta positiva per l'Italia. Siria e ISIS, raso al suolo il tempio di Bel, il partenone di Palmira, in Nigeria. Intanto Boko Haram ora punta al sud cristiano e a Lagos. Addio a Wes Craven, il maestro dell'horror, fu anche il papà di Freddy Krueger. E dunque ripartiamo da un fronte che, come dire, come è stato per tutto questo mese di agosto, ci riporta sulla crisi internazionale della migrazione. Parecchi gli spunti, avremo anche degli ospiti su questo tema nel corso della prossima ora. Direi di partire invece però con Vincenzo Miglietta. Ciao Vincenzo, ben ritrovato. Buongiorno. Anche a te dalle vacanze. E il tema è sempre lo stesso ormai da settimana, e quindi a te chiedo di farci il punto dalla prospettiva di Roma, naturalmente, del governo italiano. Sì, buongiorno. Una situazione, quella dell'immigrazione, che colpisce l'intero vecchio continente, dalle sponde del Mediterraneo ai Balcani, dall'Europa centrale, Austria e Germania, per arrivare quindi alla pressione dei migranti sul canale della Manica tra Francia e Gran Bretagna, Calais, dove proprio in queste ore è in corso la visita del commissario europeo all'immigrazione Avramopoulos, che vede il primo ministro francese Val e il responsabile degli interni transalpino Cazeneuve. Un mini vertice questo, che precede quello più atteso, che si terrà il 14 a Bruxelles, dove necessariamente si dovranno rivedere le regole sulle richieste di asilo, con un superamento delle regole di Dublino per una gestione più collegiale del fenomeno, ma si dovranno fare anche i conti con l'accelerazione delle ultime ore della Gran Bretagna e con la proposta del ministro dell'interno britannico Theresa May, che chiede una riforma della libera circolazione comunitaria in modo da autorizzare la permanenza in Gran Bretagna soltanto a chi possiede un lavoro e chiudendo invece le porte ai disoccupati che provengono da altri paesi europei. Il trattato di Schengen non si tocca perché è una conquista di libertà, commenta intanto il ministro dell'interno Angelino Alfano. Ora si comprende, aggiunge poi Alfano, che l'Italia è soltanto luogo di transito, il vero approdo sono i paesi del nord. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. Dunque, la questione britannica, l'avete sentita, è stata accennata. Allora chiedo a Pietro Lacorte, oggi in regia, di scambiare un momento la nostra scaletta. Prima sentiamo qual è stata la reazione di Antonio Tajani, che, come sapete, da anni frequenta l'ambito comunitario, ora come vicepresidente del Parlamento europeo, responsabile per la sicurezza e il dialogo interreligioso. Ecco, a Tajani la nostra Anna Marino ha chiesto un commento su questa ipotesi avanzata da Londra di una chiusura davvero drastica delle frontiere. Sentiamolo. Le regole ci sono, vanno rispettate, Londra fa parte dell'Unione Europea, non può utilizzare i fondi europei quando le fa comodo e poi quando invece deve assumersi le proprie responsabilità fa orecchie da mercante e si rinchiude nel proprio egoismo, sta commettendo un grave errore, lo stesso che ha commesso in passato Hollande nei confronti dell'Italia. La Francia socialista certamente non si è dimostrata solidale, ecco perché serve un'azione coordinata a livello di Unione Europea, con un'azione forte anche delle Nazioni Unite, perché quello che accade nei Balcani, quello che accade in Libia non può essere soltanto risolto con interventi a breve termine, serve una strategia che permetta di fare investimenti più forti nei paesi dove provengono gli immigrati. L'Europa non può, dicono alcuni, chiudersi né rifugiarsi, perché anche gli stessi, per esempio anche per quanto riguarda Londra, è popolata anche da molti cittadini europei che fanno l'economia di Londra. Ma assolutamente sì, il problema non sono le frontiere interne, il problema sono le frontiere esterne dell'Unione Europea, è lì che bisogna agire. Chiudere le frontiere interne significa rifugiarsi nel proprio egoismo e avere una scelta miope che non porta vantaggio a nessuno. E sulle frontiere esterne dell'Unione Europea, dunque quelle in cui i 28 evidentemente non sono tutti i paesi, incontrano il mondo extracomunitario cosiddetto, Radio 24 ha deciso di svolgere una serie di approfondimenti che di fatto dureranno tutto il mese e porteranno i giornalisti di Radio 24 ad approfondire i luoghi in cui avviene dunque la pressione e il contatto tra quelli che sono, diciamolo pure, due mondi economici, due mondi culturali. Partiremo già questa settimana con la nostra inviata, sarà al confine tra Serbia ed Ungheria, un punto oggi nevralgico di questa grande storia che di fatto è l'immigrazione, la crisi dell'immigrazione in Europa, e potrebbe essere anche una forma, un aspetto declinato di questa vicenda, la drammatica storia di violenza che si è verificata in Sicilia in questi giorni. Allora, ora si cercano eventuali complici del giovane fermato per il duplice omicidio di una coppia a Palagonia, in provincia di Catania. Sentiamo. Sono proseguiti fino a notte fonda i rilievi della polizia scientifica nella villa di Palagonia, in cui sono stati uccisi per rapina i proprietari Vittorio Solano, 68 anni, e la moglie spagnola Mercedes Ibaniz, 70. Del duplice omicidio è accusato un ivoriano di 18 anni, Mamadou Camara, dall'8 giugno scorso ospite del CAR di Mineo. Il giovane è stato fermato ieri sera dalla polizia su disposizione della procura di Caltagirone. Sembra che ad incastrarlo siano state le macchie di sangue trovate sui suoi pantaloni e un cellulare. Le indagini in queste ore si concentrano però anche su potenziali complici. Gli investigatori ritengono probabile infatti che il giovane non abbia agito da solo. Intanto si sfoga la figlia dei coniugi uccisi e colpa anche dello Stato, dice Rosita Solano. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torneremo su tutto questo e ora ci occupiamo invece di economia e borsa. Eni non basta, almeno per ora Piazza Affari che scivola, ma tutti i dettagli naturalmente da Deborah Rosciani. Buongiorno, e comunque va meglio delle altre piazze europee, Gigi, perché le borse del vecchio continente stamattina sono tutte negative, hanno aperto male la settimana, adesso in miglioramento rispetto ad un avvio di seduta che era stato anche più brusco, perché Parigi e Francoforte hanno superato in apertura di giornata il punto percentuale di ribasso, adesso è meno 0,7% per Parigi, meno 0,6% per Francoforte. Londra è chiusa per festività, Milano perde molto meno, meno 0,19%, anche Piazza Affari in recupero rispetto ad una mattinata più difficile, sostenuta questa seduta, come dicevi, da Eni, che adesso guadagna 2 punti, in apertura guadagnava oltre 4 punti percentuali. La notizia, che peraltro approfondiremo nel corso del giornale radio, riguarda la scoperta nell'offshore egiziano del più grande giacimento a gas mai rinvenuto nel Mediterraneo. Questo giacimento è situato appunto in un permesso detenuto da Eni al 100% ed è inevitabile che il titolo in borsa stamattina riprenda a correre. Gli fanno compagnia Unipol Sai in rialzo dell'1,45%, Azimut più 1,12%. Gli appuntamenti centrali della settimana ancora una volta ruotano attorno alle decisioni delle banche centrali. Giovedì c'è il meeting della Banca Centrale Europea, il primo più importante della, naturalmente dopo l'estate. Si considereranno le statistiche sull'inflazione, alcune delle quali diffuse anche questa mattina, perché come sapete proprio per combattere la deflazione la BCE ha varato il massiccio quantitative easing ad inizio anno. Direi che per ora, Gigi, è tutto. Grazie Deborah Rosciani. E dunque Eni, come giustamente anticipavi, lo sentiamo in una riflessione firmata da Alberto Negri. Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è stato il primo a congratularsi con l'Eni per la scoperta in Egitto del maggior giacimento offshore di gas del Mediterraneo, destinato a soddisfare la domanda egiziana di energia per decenni. Forse adesso abbiamo capito perché il nostro governo in questi mesi trattava con tanta deferenza un personaggio controverso come il generale Abdel Fattah al-Sisi, autore del colpo di Stato di 2 anni fa. Ma al-Sisi non ha vita facile. Dopo la condanna a 3 anni di carcere di 3 giornalisti di Al Jazeera, il Cairo ha convocato l'ambasciatore britannico, che aveva definito sconcertante la sentenza, peraltro criticata anche da Stati Uniti, Unione Europea e Organizzazione per i Diritti Umani. Certo, gli affari sono affari e l'Italia si adegua alla realpolitik, come ha fatto del resto anche durante la visita del premier israeliano Benjamin Netanyahu, al quale nessuno ha osato muovere neppure un timido rimprovero per l'occupazione dei territori palestinesi. Anzi, è lui a redarguire l'Italia per il dialogo con l'Iran. Nessuno che gli contesti il sabotaggio di ogni negoziato con gli arabi. Andiamo avanti così a tutto gas, ma senza nessuna presa di posizione degna di nota in politica estera. Però dopo non lamentiamoci, come è avvenuto nel caso dei Marò in India, che vogliamo continuare a fare affari e anche proteggere la dignità nazionale. E adesso torniamo a Roma, aspettando il sindaco in quello che sembra sempre di più una vacanza politica, per quanto di lusso, la capitale torna ad affrontare i nodi che rimangono sul tavolo. Andrea Viali. Il suo rientro dagli Stati Uniti è previsto per mercoledì sera, nel mezzo di una settimana decisiva per l'organizzazione del Giubileo. Ad attenderlo Ignazio Marino troverà un clima tutt'altro che sereno dopo le polemiche per la decisione di non interrompere le sue vacanze, nonostante il Consiglio dei Ministri su Roma, nel quale il governo ha deciso di affiancargli il prefetto Gabrielli anche nella gestione delle opere per l'anno santo. Il primo faccia a faccia fra i due si terrà probabilmente venerdì, ma già da oggi inizieranno una serie di incontri preparatori. Sul tavolo c'è anche la questione delle risorse disponibili. Marino nel frattempo resta sotto attacco da parte delle opposizioni, che insistono nel chiedere le sue dimissioni. L'Italia e il PD non possono permettersi un fallimento nel rilancio dell'azione capitolina. Marino colga fino in fondo questa opportunità, e invece il messaggio che arriva dal ministro della giustizia Orlando, il quale dopo l'inchiesta su Mafia Capitale annuncia anche un rafforzamento degli uffici giudiziari romani. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma. E a Roma restiamo con Elisabetta Fiorita, anche a te ben rientrata. Elisabetta, prima domanda, sono rientrati anche i deputati a Roma oggi? No, ancora no, la prossima settimana comincerà l'attività parlamentare. Comunque sono due grandi temi in agenda in autunno per il governo, a parte ovviamente la legge di stabilità, e questi due temi sono le riforme istituzionali e le unioni civili. La prima vede in disaccordo la minoranza democratica. Il vice segretario PD Deborah Serracchiani avverte: sul Senato non elettivo non si cambia, ma per il dissidente Vannino Criti il premier Renzi bluff sui numeri al Senato e in seconda lettura servono 161 voti e non si può affrontare questo tema sul filo di lana. Per l'ex segretario PD Pierluigi Bersani non si fa la Costituzione con delle forzature. Le unioni civili invece provocano il no del nuovo centrodestra. Per Carlo Giovannardi di Area Popolare si tratta di unioni incivili. Con il testo del governo si rischia il mercato del seme, perché si apre alle adozioni e alla politica dell'utero in affitto. Sul fronte dell'opposizione invece vediamo che il centrodestra pensa di nuovo a un ticket Lega Forza Italia, anche se per Matteo Salvini bisogna vedere cosa vuole fare Berlusconi, perché il suo partito dice è diviso. Il Movimento 5 Stelle con Beppe Grillo accusa siamo in una dittatura, però poi lo stesso Grillo a fare autocritica: noi non eravamo pronti nel 2013, abbiamo incamerato dentro chiunque. A te Gigi. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Dunque, riapertura a ritmo differenziato, la prossima settimana i parlamentari, poi saranno le scuole, anche se nel frattempo naturalmente ci sono gli esami di settembre, che non si chiamano così, ma insomma di fatto sono di nuovo i vecchi esami di settembre. Una notizia invece: è stato rilasciato su cauzione Vittorio Fera, l'attivista italiano arrestato venerdì in Israele, lo riferisce la Farnesina. Il Tribunale di Gerusalemme ha disposto il rilascio di Fera su cauzione ed un prolungamento dell'indagine. Indagini fino all'8 settembre. Ancora una notizia internazionale: alcuni deputati nazionalisti del Partito Radicale di Liashko hanno occupato la tribuna del Parlamento ucraino per impedire il voto per la concessione di una maggiore autonomia a sud-est del paese, dove dall'aprile scorso le truppe di Kiev combattono contro i separatisti filorussi. E ora con Carlo Genta, che mi ha raggiunto in studio, invece parliamo di cose meno drammatiche, ma sicuramente, come dire, di ampio interesse. Carlo sorride per questa seconda giornata. No, non sorrido perché hai chiamato gli esami di settembre, si chiamano debiti. Gigi. Ah, scusa, i debiti. I debiti, adesso il debito ce l'ha la Juventus, okay. A zero punti. Juventus a zero. Dopo due partite, l'avvio peggiore degli ultimi 103 anni, solo il grande Torino ha vinto lo scudetto, non sono solo statistiche, ha vinto lo scudetto perdendo le prime due di fila. Intanto Chievo, Torino, Inter, Sassuolo e Palermo sono le squadre a punteggio pieno. Adesso il campionato si ferma e domani, anzi oggi alle 23 si chiude il mercato, quindi avremo squadre con un volto definitivo, certo che fa rumore la Juventus che perde, ma senza accumulare debiti, proprio netto a Roma. A giugno, quindi. Sì. Ha perso nettamente a Roma, è stata dominata da una Roma molto, molto migliore, con una faccia molto diversa rispetto a quella che aveva debuttato a Verona. Poi per il resto sorprende anche, ma soprattutto per le proporzioni, il crollo della Lazio a Verona con il Chievo, perché 4 gol sono tanti, soprattutto per una squadra che ha iniziato presto la preparazione per una Champions League che è andata male. Quindi probabile che sia un contraccolpo. Il Torino bravissimo, vince in rimonta con una Fiorentina non così bella come nell'avvio con il Milan, e in testa a punteggio pieno, no? Quindi certo. Questo... Chievo, Torino, Inter, Sassuolo e Palermo, anche il Palermo colpaccio perché riesce a vincere in trasferta a Udine. Insomma, l'altro, direi che a partire dalle 2:05 ci sarà parecchia materia. Ma c'è anche Valentino Rossi, attenzione. Assolutamente, straordinaria triplete. Ha fatto qualcosa di meraviglioso. Carlo, ti ringrazio. È tempo di aggiornamenti per chi è in viaggio, naturalmente dalle 14:05, poi tempo di tutti i convocati, ma questo dopo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, da Laura Faggin, da Pietro Lacorte in regia. Dunque le notizie, i titoli di oggi, naturalmente la crisi immigrazione in primo piano, l'ira della figlia dei coniugi uccisi a Palagonia che dice è colpa dello Stato, anche l'annuncio reiterato, se vogliamo, perché l'annuncio è stato fatto ieri, della grande scoperta di idrocarburi dell'ENI. Queste le notizie principali, oltre naturalmente allo sport su cui torneremo ampiamente dopo le 14, e battute proprio qualche istante fa. Ci sono delle note che arrivano appunto da Bruxelles circa lo sforzo che viene fatto intorno alla grande questione della migrazione. Dice: nessun paese pensi di nascondersi, è l'ultimo comunicato, non dico di guerra, ma sicuramente comunicati dalla Commissione Europea ultimamente stanno assumendo un tono un pochino più diretto e forse comprensibile, perché naturalmente in questa grande crisi ci sono alcuni paesi che si sono mobilitati, che si sono impegnati, alcuni paesi che per varie ragioni, alcuni sono anche comprensibili, sono paesi molto più piccoli, oppure semplicemente che culturalmente hanno una grande paura ad affrontare questa complessa questione. E visto che la questione è complessa anche perché è distribuita in spazi davvero grandi, allora noi ci spostiamo in quella che chiamano la Saint-Tropez della Turchia, Bodrum, un luogo appunto estivo dove immagino anche in questi istanti l'estate soprattutto della bellissima costa turca tenga il ritmo della stagione, dove raggiungiamo Mauro Mondello. Mauro, buongiorno intanto. Buongiorno. Dunque, dicevamo, una Saint-Tropez della Turchia che però è diventato in questo periodo uno dei punti più vistosi di questa crisi, il punto del passaggio verso l'Egeo e alla fine verso l'Europa. Prego. Sì, decisamente, ormai dall'inizio di luglio, anche da qualche settimana prima, sono centinaia al giorno i siriani, gli afghani, gli iracheni che raggiungono il porto di Bodrum per attraversare l'Egeo e arrivare a Kos. Di fatto Bodrum è diventato il porto principale di partenza per tutte queste persone che cercano di raggiungere le coste europee e poi pian piano di risalire dalla Macedonia e l'Ungheria fino al Nord Europa, che poi è il sogno in qualche modo di tutte queste famiglie che lasciano la Turchia verso l'Unione Europea. Ecco che... abbiamo detto che Bodrum è in qualche modo la Saint-Tropez della Turchia. Ora, se uno, come dire, estendesse il ragionamento, direbbe: ma perché molti non si fermano lì, visto che c'è turismo, visto che ci sono altre attività? Beh, perché sicuramente il sogno per tutti è quello di raggiungere l'Europa. Perché comunque c'è da dire che è vero che Bodrum è insomma una località turistica ed è questo uno dei fattori più surreali della situazione che si vive qui in Turchia, ma ad ogni modo non è una località che può dare, né dal punto di vista logistico né da quello economico, accoglienza alle migliaia di persone che ogni giorno arrivano qui. Ecco, chiaro, magari non dico un miraggio, ma insomma un effetto estivo. Tu hai parlato di effetto surreale. Perché surreale? Cosa succede lì? Reale perché contemporaneamente è possibile vedere delle auto di grossa cilindrata parcheggiate in doppia fila e poi delle famiglie che dormono accampate nelle aiuole che circondano la zona del porto. surreale, perché un turista europeo che voglia arrivare a costo bastano 17 euro e 20 minuti di traversata, mentre un migrante deve spendere $1,000 per una traversata che durerà 2 o 3 ore se effettivamente riuscirà poi ad raggiungere l'isola di Corso. Ecco, per questo motivo diciamo ci troviamo di fronte ad una situazione stranissima e evidentemente anche molto difficile sia da vedere che da analizzare. Ecco, Mauro Mondello, sei lì da alcuni giorni, la sensazione è che diciamo siamo alla fine di un flusso, oppure è invece una continuità in quello che vedi? C'è assolutamente una continuità, anzi al contrario, la sensazione è che adesso si stia in qualche modo spargendo la voce rispetto alla possibilità di raggiungere le coste greche dalla Turchia, e che quindi nelle prossime settimane, o perlomeno fino a quando la stagione continuerà a permetterlo, i flussi continueranno a crescere. Da questo punto di vista c'è anche un particolare importante da spiegare: la maggior parte delle persone che arrivano qui da Siria, Iraq, Kurdistan non hanno assolutamente ben chiaro ciò che li aspetterà una volta arrivati in Europa, probabilmente perché arrivando da contesti di guerra, di tensione etnica molto duri, immaginano che non può succedere nulla di peggio rispetto a quanto gli è già capitato, e invece noi conosciamo molto bene la situazione estremamente complessa che si troveranno poi a dover affrontare una volta raggiunta l'Europa. Grazie Mauro Mondello. Certo, la speranza è che non accada nulla di peggio. Purtroppo la cronaca ci racconta episodi davvero mostruosi, come mi viene ovviamente in mente, come a tutti in questi giorni, il dramma di questi 71 morti di asfissia, di sfinimento all'interno di un furgone in Austria. Cosa gli aspetta una volta arrivati? Anche questo è un grosso tema. Chi gli aspetta di questo grande sogno europeo? Ci aiuta a capirlo il prefetto Mario Morcone, capo dei Dipartimenti delle Libertà Civili. Morcone, buongiorno intanto. Buongiorno a voi. Allora, lei è stato, come dire, sollecitato in questi giorni parecchie volte sul tema degli hotspot. Vorrei chiederle di aiutarci a capire in 50 secondi di cosa si tratta. Prego. Hotspot sono nient'altro che delle strutture allo sbarco dove le persone vengono immediatamente identificate, vengono diciamo divise le persone che chiedono asilo dalle persone che non lo chiedono o non vogliono essere identificate, e questo naturalmente ai fini poi di un eventuale rimpatrio. La prima identificazione, ed è stata causa diciamo di tensioni, mettiamola così, anche con Berlino, perché sostanzialmente Berlino ha detto l'Italia non lo fa, tende a farli passare, perché una legge comunitaria prevede che chi fa la prima registrazione poi se ne assume la responsabilità, è così? Sì, questo è vero, però se noi come deve essere abbiniamo il tema relocation al tema hotspot, perché sono tutte e due misure della stessa progetto europeo, l'agenda Juncker, evidentemente sarà più facile convincere le persone, soprattutto i siriani e gli eritrei che hanno diritto alla relocation, a farsi identificare, perché hanno la speranza di andare in altri paesi secondo le quote che verranno stabilite. Certo, perché molti di loro hanno paura. Il caso, se vogliamo, degli ultimi questi tre bambini in fin di vita in Austria, la prima cosa che pare abbiano fatto i genitori appena i bambini si sono ripresi è stato prenderli e partire verso la Germania, perché, come dire, i migranti sono piuttosto ben informati ovviamente sulle modalità, a volte più di noi, diciamolo pure. Ma non è solo un problema diciamo di informazione o di qualità dell'accoglienza, sulla quale francamente potremmo anche discutere, è che molto spesso naturalmente si sono creati anche dei nuclei veri e propri di appartenenza, di etnie. Certo. Parenti, conoscenti, opportunità probabilmente di collocarsi in un contesto nel quale è più facile integrarsi. Chiaro, che poi sono i meccanismi classici della migrazione. Prefetto, stiamo davvero cambiando secondo lei? 14 grande riunione, non è la prima, sta davvero finendo l'era, se vogliamo, la prima era europea in cui Dublino, inteso come accordo, definisce la questione e che di fatto ciascuno si arrangia? D'altra parte le posizioni assunte dal nostro Presidente del Consiglio, dal Ministro Alfano e dalla Cancelliera Merkel mi incoraggiano molto, però allo stesso modo vedo anche delle posizioni, soprattutto quella dell'Inghilterra, ancora molto aspra, e quindi il timore è che ci sia ancora da fare molta battaglia. battaglia. Ecco, la posizione dell'Inghilterra molto aspra. Noi naturalmente abbiamo, come dire, raccogliamo i messaggi degli ascoltatori che sono sempre di più sbalorditi da questo atteggiamento, però se vogliamo è anche quella più vistosa. Che esistano vari approcci alla questione è il minimo che si possa dire. Crede che saranno superati o sarà davvero una battaglia di sfinimento perché si crei una politica comune della migrazione in Europa? Noi ci batteremo, come ci siamo battuti già nel semestre di presidenza, perché si cambi, perché è inutile resistere su posizioni e situazioni che sono superate dalla storia. La vicenda internazionale, così come si presenta a noi in questi giorni, è tale che arroccarsi su posizioni difensive di tipo inglese, secondo me, è perdente. Però naturalmente questo sarà oggetto di una mediazione politica che si gioca a Bruxelles, nella quale evidentemente saranno i nostri vertici di governo a giocare la partita. C'è da lavorare. Un'ultima cosa, colpa dello Stato, dice la figlia dei coniugi uccisi, coniugi siciliani uccisi a Palagonia. Ora, al di là del rispetto per un momento drammatico individuale di una figlia che ha i genitori appunto uccisi in questo modo, c'è una questione, i grossi centri, questo ragazzo sospettato, ma come lui gli altri, si muovono liberamente dentro e fuori questi grossi centri. È un problema che intendiamo, come dire, affrontare e modificare, oppure è giusto così? No, abbiamo sempre detto che i grossi centri sono un problema, Mineo in particolare per la dimensione è assolutamente fuori da ogni standard, è evidente che quanto più piccoli sono i nuclei migliore il controllo sociale e si integrano anche meglio i ragazzi o le persone che comunque sono da noi. Vivono meglio, in maggiore sicurezza, naturalmente siamo in un periodo di particolare pressione per cui tutto è difficile, ma vorrei dire che i delinquenti siano delinquenti, che siano italiani o che siano stranieri, non è un problema di DNA o di appartenenza, i delinquenti sono tali e naturalmente sono sicuro che la magistratura farà la sua strada con assoluto rigore e chi deve pagare pagherà. Grazie al prefetto Mario Morcone per essere stato con noi, buon lavoro, dunque molto lavoro come avete sentito per chi in particolare si occupa di questi temi. Ora è tempo di pubblicità, borsa, insomma il nostro programma va avanti. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Corrono le notizie in quest'ultimo giorno di agosto, alcuni titoli, Timmermans, Unione Europea dice l'UE non respingerà chi ha bisogno di protezione, intanto l'Ungheria ha lasciato partire e passare, l'abbiamo giusto parlato di questo tema, per Austria e Germania i migranti che premono alle sue frontiere, poi ancora a Roma, Gabriele dice il prefetto può sciogliere il comune in casi gravi, ma adesso è tempo di sentire come vanno le cose sulle borse. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli, vi leggo una riga, l'empatia è la capacità di comprendere appieno lo stato d'animo altrui, sia che si tratti di gioia, sia che dolore, empatia significa sentire dentro ed è una capacità che fa parte dell'esperienza umana ed animale. Naturalmente perché tutto questo? Perché questo è uno dei grandi problemi di questo tempo, si possono gestire le cose in mille modi, il tema della migrazione ha implicazioni, ricadute, fastidi, drammi addirittura in certe fasi. E naturalmente la lettura è molto molto diversificata. A proposito di migranti, centinaia di persone bloccate da giorni nei campi di fortuna allestiti nei pressi della stazione ferroviaria di Budapest sono stati lasciati partire a bordo di treni internazionali diretti in Austria e in Germania. Ecco, questa di fatto è un'ultimissima notizia che ci racconta anche quelli che sono gli atteggiamenti dei governi che cambiano di giorno in giorno. Abbiamo assistito al muro, non ne abbiamo parlato e ve lo racconteremo ancora. L'Ungheria ha passato di fatto il fine settimana a completare un nuovo muro, in questo caso di filo spinato sulla sua frontiera sud con la Serbia. Beh, nello stesso tempo i migranti che passano e arrivano dopo due giorni rappresentano un obiettivo problema, lo sappiamo anche in Italia nelle stazioni varie, e dunque in questo momento l'Ungheria ha deciso andate oltre. Un grosso tema europeo in cui le visioni sono molto diverse tra loro, una delle quali l'abbiamo avuta anche questa mattina. Il leader della Lega, Matteo Salvini, riprendiamo un suo passaggio a 24 mattino con Alessandro Milan. Il problema problema non è salvare vite umane, Renzi sta aprendo un cimitero nel Mar Mediterraneo, per prendere tre applausi e fingersi buono sta aprendo delle fosse comuni sul fondo del Mar Mediterraneo. Qua non si tratta di fare i recinti, i fili spinati, i ponti levatoi, si tratta di regolare, perché altrimenti da qui al 2050, come sentivo, ci sarà l'anarchia, perché più invitiamo a partire queste persone, più ne muoiono. Farei un colpo di telefono alla Marina Militare e alla Guardia Costiera invitandoli, come la legge del mare, come l'umanità, ovviamente prevede, a soccorrere e salvare tutti, ma di tenerli a bordo e non farli sbarcare. Ma dopo un po' le navi, quando sono riempite, arrivano altri, che facciamo? E io ti identifico a bordo, tu mi dici a bordo chi sei e da dove vieni. E se no? A mare. No, che a mare, no? Ti riporto da dove sei partito. Ah, no, a mare, per carità di Dio, a mare ci pensano già gli scafisti, contro cui non stiamo facendo assolutamente niente. I respingimenti, insomma, i respingimenti. Assolutamente. Questo era Matteo Salvini con Alessandro Milan. Adesso chiudiamo questo grande capitolo della migrazione. Torniamo invece alle inchieste di Daniele Biacchessi in Effetto Giorno, ogni lunedì e venerdì. Oggi parliamo di un giornalista scomodo che quest'estate è stato minacciato più volte dalla mafia per le sue indagini puntuali ed approfondite nella provincia di Ragusa. Lui è Paolo Borrometti, avvocato e giornalista, direttore del blog La Spia e collaboratore dell'AGI. Vive scortato da molto tempo. In sua solidarietà è intervenuto anche il presidente del Senato Grasso, che ha chiesto alla politica e alla società civile di non lasciarlo solo. Daniele Biacchessi lo ha intervistato per noi. Quando sono iniziate le minacce della mafia nei suoi confronti? Posso solamente dire che da quasi due anni oramai vivo sotto pressante e incessante tentativo di intimidazione da parte di chi vorrebbe magari che ci occupassimo di altro. Il primo episodio risale ad ottobre del 2013, quando sulla mia macchina, sulla fiancata della mia auto, per intero mi incisero la scritta "stai attento". Da allora è stato un continuo e incessante calvario. Quali sono le inchieste che lei ha realizzato? Noi abbiamo cercato di dare voce alla bellezza di un territorio che è quello del sud-est siciliano, e quello quindi della provincia di Ragusa, ma non solo. Ci siamo occupati della mafia nella città di Montalbano, Scicli, conosciuta a tutti come la città che ospita il set a cielo aperto del commissario Montalbano. Allora fummo considerati dei pazzi, dei visionari, eppure poi alla fine i fatti ci hanno dato ragione. Oggi il comune di Scicli è sciolto per mafia, il sindaco è rinviato a giudizio per associazione esterna mafiosa e una cupola vera e propria è stata sgominata in quella città. Da Scicli ci siamo occupati delle commissioni di affari mafiosi, connivenze politiche in tutta la provincia, fino ad arrivare poi agli affari nel mercato ortofrutticolo di Vittoria. Il mercato ortofrutticolo di Vittoria è il più importante del sud Italia. Immaginate voi quali loschi affari purtroppo si nascondono dietro questa triangolazione di mercati così importanti, quindi dai trasporti su gomma alla gestione vera e propria, agli affari della plastica che, per chi non lo sapesse, la plastica delle ferre viene riciclata, e anche dietro a questa attività c'è un ricavo enorme. Le nostre ultime inchieste sulla famiglia Ventura, altro clan mafioso, e non lo diciamo noi, non lo dico io, ma lo dice la relazione 2014 della Direzione Nazionale Antimafia. Il clan Ventura è uno dei più potenti, dei più sanguinari in quella parte di Sicilia. Il capomafia è al carcere duro, al 41 bis, si chiama Filippo Ventura, e fuori però si è ricostituita tutta la famiglia, che a poco è uscita per permessi, godendo di agevolazioni ovviamente che purtroppo il sistema giudiziario dà. Questi signori di fuori hanno reiniziato ad investire, ad avere attività illegali, ma anche delle attività legali. Solo che abbiamo scoperto, ed è questa la nostra ultima inchiesta in ordine di tempo, che ad esempio proprio l'attuale reggente, tale Giambattista Ventura, fratello del capo mafia al carcere duro, ha un'agenzia, una sorta di monopolio delle imprese funebri nella zona di Vittoria, ed anche questa è totalmente senza regolari licenze. E questo crea, produce i colleghi, i giornalisti minacciati o addirittura imprigionati, come appunto il caso dei tre giornalisti di Al Jazeera accusati di aver diffuso false informazioni. Su di loro una sentenza pesantissima. Di questo parliamo qualche momento con Domenico Affinito, collega, inviato di RCS, ma in questa veste soprattutto vicepresidente della sezione italiana di Reporters sans frontières. Domenico, buongiorno. Allora, sono ancora tante queste situazioni e soprattutto tendono ad aumentare nel mondo contemporaneo. Sì, sono aumentate costantemente, anche se non in maniera lineare, comunque dal 2001 in poi. Ad oggi abbiamo 306 tra giornalisti e netizen, quindi diciamo dissidenti, attivisti imprigionati in tutto il mondo. In realtà il mondo è un posto sempre meno sicuro per chi usa la parola, per chi vuole esercitare la libera parola. Abbiamo solo 21 paesi, secondo i nostri canoni, totalmente liberi, che sono l'11,6%. Noi siamo tra questi? No, noi siamo nella parte centrale, diciamo, di quelli parzialmente liberi. Ci sono invece 66 paesi con problemi gravi o gravissimi, quindi parliamo di omicidi di giornalisti che finiscono in carcere per anni e anni, e questo è il 36,6% del mondo, quindi diciamo che quasi il 40% del mondo è un posto dove esercitare la libera parola è praticamente impossibile. Ecco, questo naturalmente accade, a volte io citavo l'Egitto è un buon esempio di un paese amico, di un paese con cui facciamo ottimi affari da secoli evidentemente, e anche quando è possibile un grande paese turistico. Il caso di questo grande pozzo petrolifero, anzi di gas, ritrovato nel Mediterraneo, ha suggerito una riflessione che è fastidiosa, perché fa pensare: è possibile che ancora oggi, di fronte agli interessi economici, non si possa comunque spezzare una parola in confronto di un diritto condiviso e da proteggere come la libertà di espressione? Gli affari sono sempre il freno, diciamo, delle democrazie, della denuncia delle democrazie? In parte sì, tu hai perfettamente ragione, ed è un peccato, un'occasione persa, perché invece potrebbe essere lo strumento, proprio gli affari, proprio lo sviluppo economico, i rapporti internazionali potrebbero essere lo strumento per veicolare la concezione, il concetto di diritto alla libertà di parola, al libero pensiero e alla libertà di stampa, che è un diritto che non è di proprietà di nessuno, non è di proprietà della storia occidentale, non è di proprietà della storia orientale, è un diritto inalienabile di ogni singolo essere umano, ed è un diritto molto labile, è uno dei primi che va in crisi lì dove ci sono delle tirannie, ed è un diritto centrale, perché la conoscenza veicola anche la conoscenza degli altri diritti. Ecco, un peccato che l'aspetto economico, gli affari, non diventino invece un modo per un grimaldello per far entrare questo ed altri diritti lì dove invece vengono negati, come ad esempio in Egitto. Grazie a Domenico Affinito, lo ricordo in questa veste, vicepresidente della sezione italiana di Reporters sans frontières. E adesso viabilità.